sfidai a creazione. Dei tutti io perduto nel vento, ora saggio chino il capo adagio, addio al suo portento, e ritorno in cerchio eterno dell'angelo più bello. Vibrazioni belle, emozioni, salti, balzi, alti, o respiri miei, salite, vette ardite, perdute. Oh, quanto vi guardai, ora nel mezzo tiro un altro tiro, tiro un altro tiro, tiro un altro tiro. Concerto in me, miro dentro a trovare nuovo sangue, profumo langue, centro. Verrò, verrò, verrò, mie emozioni sere vere dove perdere. Orrore, ritrovai bellezze, ore di splendore. Profumo mio, fino ti fai alla luce del crepuscolo. Dio, oh Dio, vece io di te in terra, dammi genesi e voce. Muovi sacre rote, oh Dio, voce, voce, fai melodie, melodie, melodie. Odi, a lei, aprite i cieli, annuncio il mio ritorno. Diavolo bianco redento.